cercava di lotte, come il discorso? La bottega era donna ubriaca, lei. Hai capito? Certo, non basta che mi faccio le 8 ore, cazzo, mi faccio un culo, ma non è che state impastando, cazzo, a fare, cazzo, mi ha messo, cazzo, a fare il coso del cemento, cazzo, a mano, senza metamiera, senza, cazzo, mi devo tirare l'acqua io su dalla botte, cazzo, non voglio un peso, cosa cazzo vuole questo? Yeah. positivo. Fare passaggio, io. Devo fare passaggio, sì. Comune, io non lo sei. Comune? Yeah. scappa, se no buon fine settimana anche a te, dai. Salutone a te, guerra familiare. Ciao, ciao. Attenzione, grandi masturbatori di Antonio Garzobella, noi andiamo a fare la Sergio Gappa. Attenzione, mi che ti chiamo con l'attore, non ho detto che non ti sa bene Italia. Ah, già va bene, andate a vedere. Come la Puglia? Ma ti fa che? Vabbè, radio falchetto. Senti qua, vita lì, che è bello. Luca, ti volevo dire una cosa. Mi sono informato oggi. Mi hanno detto che per il discorso del passaggio in proprietà che bisogna andare alla circoscrizione più vicina che hai dove abiti tu. Addirittura non ci voglio neanche io devo dare la marca da bollo e il codice fiscale, capito? Poi deve andare lui alla circoscrizione vicina a casa sua, capito? E fa l'iscrizione a nome mio. Poi io ho tempo 60 giorni andare all'ACI a scrivermi l'intestazione a nome mio. E ma ti conveni fare un passo direttamente e via, lo so perché. Lo so che si può fare. Cosa vuoi fare? Il passaggio, usci. Taglia, comunque hai capito male tu, Allora, ti ha detto, queste parole qua, perché mi ricordo bene, no? Ti ha detto che se gli dai 5,50 si arrangia da lui, se non gli dai 500 e un passaggio te lo paghi tu. Così mi ha detto stasera e così ti sto dicendo io, non due passaggi, un passaggio. Sì, ma lui vuole 5,50, Luca. Ehi, un passaggio non è pari, ti arrangia lui, capito? Ah, 500 euro mi devo fare un passaggio io però. Cazzo, tu, 500 euro ti fa un passaggio tu, 5,50 si arrangia lui. Ho capito. Comunque si può fare anche così, non è che si può fare, devi fare così. Perché adesso io pensandoci bene, quando la mia 50 ha venduto la macchina, sono andati prima in comune alla circoscrizione. E poi mia moglie, cioè quando il tipo che ha venduto la macchina è andato lui a c'è la base di iscrizione, l'intestazione, capito? A nome suo. Lo spiegi un po' tu, quello che riesci a fare. Perché quando è l'appuntamento per il passaggio? Appuntamento per mercoledì, siccome io mercoledì rientro al lavoro e mi hanno detto il martedì è lavorativo. Si può fare anche martedì, però si può fare come abbiamo detto che si può fare, perché si può fare, possiamo andare anche domani, volendo. Sai, però quando mercoledì, ma no, martedì, chiamalo, facciamo martedì. E infatti, se perché se martedì è lavorativo, anche là c'è aperta martedì, capito? Cazzo, ma lì non muore un mezzo paese, con un addio, oddio, fa due giorni salari e poi rientri in cantiere, da te ne frega. Così fai tutto veloce, buonanotte, a volte è tua, si abbia in culo, cazzo, la puttidini qualche, facciamo tragi, ci sono un'oretta neanche, poi prendi e fatti direttamente al lavoro, non è che muore un mezzo paese di buio, no? Non hai capito, martedì io non lavoro, siccome martedì lavoro a Raci. Perché non è festivo, è lunedì festivo, no, martedì. Possiamo andare martedì, non mercoledì, capito? Hai capito, Lugari? Vogliamo. Io adesso il telefono, domani glielo dico, non più per mercoledì, ma martedì, perché martedì là c'è aperta. Avanti, Mauro. Eia, ma quello si sapeva che era la circoscrizione. Deve firmare il proprietario e deve mettere il nome di chi sta comprando. Dopo vai a fra e fai il passaggio. Così è, ma ho ragione allora io. Sì. Deve andare, se non mi ricordo la marca da buono da quant'è per andare in comune. Cioè in comune, la circoscrizione. Vale, deve firmare il proprietario, non tu. Capito? Tu lo sai dove firmi? Tu lo devi firmare a fra. Esatto, ed è così che si farà, capito? Perché io mi ricordo che si fa così, perché quando la mia 50 ha venduto la vettura è andata lì stesso, ha messo il nome di chi stava vendendo la macchina, poi quello là se la doveva andare a qua, chi comprava la macchina si doveva attestare la macchina a nome suo, capito? Se no, dopo i 60 giorni che lui non fa, se capita che lui non va al PRA a farsi le cambio di nome, io sono obbligato ad andare a riprendere la vettura, lo sai Mauro? E cade tutto. Allora, quando tu non vai dopo al PRA entro 60 giorni, ritorna, rimane sempre intestato al vecchio proprietario, al proprietario esistente. Esatto, esatto, così mi hanno detto, e così farò, adesso domani il telefono e glielo dico. Ehi, ma lì lo so anch'io, perché tanto devi guardare in base a chi l'ho fatto, tanto devi fermarlo tu, il Puglio, al trappero, capito? Lui va là con il certificato di perfetta, lo prende, lo porta al CDP, lo porta in alla circoscrizione, con la marca da bollo, firma, mette il nome e cognome tuo, i dati tuoi ci vogliono, non CDP. Lo firma e dopo lo date, tu vai a Pra e fai il passaggio. Positivo, e così farò, Mauri, farò proprio così. Tanto dopo devi andare tu, quando lui va martedì mattina, adesso io non lo so se domani mattina sono aperte, ma mi sembra di sì. Ma vabbè, tanto che domani devo lavorare, mi sta bene anche per martedì, non c'è problema. Ah, vabbè, uguale, casomai ti trovi con lui, andate alla circoscrizione. Fate quello, passare al Pra, firmi il coso, firmi il foglio al Pra, hai fatto il passaggio per te, sei a posto. Sì, ma quello devo andarci io, cioè è obbligatorio che venga lui. No, non è obbligatorio, no. E infatti ti sto dicendo, va prima lì, dopo tu martedì mattina lo prendi, sali al Pra, gli consegni il foglio e lo intestano tutto a nome tuo. Positivo, e così farò, no. Tanto riguarda, se c'è poca gente, se non c'è molta gente, te la sbrighi veloce. Dai, un attimo, in comune un attimino, poi io quando vado il mattino presto me la sbrigo subito, sì. Ma vabbè, in comune aprono alle 8, mi pare, Eglia, mi sembra che qui ci aprono alle 8. Eglia, poi se è aperto domani, ci andiamo direttamente domani e si fa tutto domani, capito? Ma infatti, ti sto dicendo, se tu non stai lavorando, non ci vai nulla, domani mangiarlo, sei libero. Ti avvicini da lui, fate domani il foglio al comune e dopo martedì mattina sali all'apertura, mi sembra per le 9. E sali alle 9, le lo consegni, ti fa il passaggio per perfetta, vai, ti fa l'assicurazione e c'è a posto. Perfetto, perfetto. Per l'assicurazione non sai dove andare. Allora vai in via 4 novembre, il primo palazzo sulla sinistra. Che? Fa l'assicurazione lì, fatela lì. Io ci ho mandato una amica e l'hanno fatto risparmiare. KK, no, ma lui me la stanno già con l'assicurazione, capito? Fino allo scale, a ottobre del prossimo anno lo scale e poi vado lì. La guarda deve essere intestata a te, non a lui. Lo so. E quindi o te la gira, che non penso che te la gira, no? Se no te la devi fare, se no se ti fermo ti rompono le scatole. Kappa. Quindi se no non te la gira, il nome tuo è buono, se no devi andare a fartela a zero. Via. Va bene. Ui, fate facile, non è difficile, no? Fate, fate. Penso che non si paghi neanche molto per il 125, no? No, è proprio per quello ci parlano di più. Parlo di più con 125 che con la mia è 250. Oh. Perché siccome la possono andare a usare minorenni, e quindi ti fanno pagare di più. Per quello ti sto dicendo di andare lì, penso che si paga di meno. Io infatti vado a mia 4 ore, me lo stai dicendo tu. Perché a me me l'ha detto Antonio, ci ho mandato gente e me l'hanno fatto risparmiare. Va bene, va bene. Penserò anche a quello. Oh, io sono l'assicurazione, ma io pago 100 e passa, 130 mi pare all'anno, però per i cinquantini si paga di più. No, questo è 125, non è 50. Ma è 50 fino al 150, la tariffa è quella. Ah, così? Sì, perché siccome la usano minorenni, allora le assicurazioni ti fanno pagare di più per quello. Ma se vado a mia 4 novembre risparmio, no? Sì, infatti ti sto dicendo, vai lì, oppure la mia io lo faccio lui, la sala assicurazione è in via Domenitoni adesso, non è più in via Mendola. Ho capito, ho capito. Infatti io adesso la carro vanno in scale, siccome io non lo sapevo di quella di via 4 novembre, allora che io lì. Ah, positivo. Bene, mena, bene, mena. Grazie per l'informazione, Marco. Ma figurati, parlare di nulla. Però si può risparmiare, è meglio che ce le mangiamo noi e le regaliamo a loro. Ah, quello è poco ma sicuro, eh. Tanto non paga i suoi lire, ma lo stato. KK. Ascolta, volevo chiedere un'altra cosa, se posso chiedertela. E dimmi. Ma siccome questo mezzo è intestato alla, era intestato alla suocera, e questo è, sto prendendo il mezzo, no? La suocera è morta, capito? Ma loro devono fare cose di successione prima. Ecco, loro devono fare la cosa di successione tra la defunta e il marito, così. Allora, se lo devono fare loro dopo, loro, una volta che... No, aspetta, se c'è il marito sicuramente devono fare il puglio loro. Perché se no, vabbè, ma te, una volta ti fermo il puglio, intanto a te già raggia niente. Sono problemi niente in mezzo, Perché quello non te lo so dire, perché per la tassa di successione io una volta che una è morta devono tentare a nome loro, devono aver pagato all'ufficio delle entrate le cose delle successioni. Ho capito, però essendoci il marito vivo fa difficile ma il marito no. Sì, ma lui deve aver pagato, vabbè, sicuramente l'avrà fatto, non penso che la stiano vendendo così. Infatti. Perché se no basta fare una cosa, prima di prendere se nome e cognome e numero di targa, vai a lavorare, ti informi, più che loro non lo sanno. Bisogna informare. Per vedere se tutti gli dici che tu stai comprando questa moto da questa persona che la proprietaria è morta. Come ti devi comportare? Anche per telefono ne puoi chiedere. KK. Ma peraltro, però avrò rotto le scatole dopo. Infatti è quello. Ti conviene prendere domani mattina, prima di fare il tutto, prendi e chiama la stradale, tu dici ascolti, io sto comprando una moto, questi parenti mi stanno vendendo una moto, di una persona dice tutta, cosa devo fare per vedere se a posto, perché non voglio avere problemi, otto? Punto di domanda, e poi me lo saprò di io, ma anche i carabinieri lo sanno di io, E penso di sì, ma la stradale lo sai cos'è, su questa roba qua è sempre più informata. Io se quello cosa devo chiedere per su macchina e su moto, conviene sempre di più la stradale che sono più informati. Capito? Un corpo che fa solo ma sulla strada, invece i carabinieri fanno uno e l'altro. Ho capito, va bene, ma basta che colpo il telefono, te lo possono dire anche telefonicamente o no? Tu dici, a me mi serve un'informazione, così. Io sto comprando questa moto da una persona che è deciduta. Cosa devo fare? Perché non voglio avere problemi, non potete fare un passaggio di proprietà, loro te lo dicono. Va bene, informerò anche se quello è. Va bene, ok. Riprendi Luca. No, Luca è sta Mike, dai. Riprendi Mike. Ok. Adesso mi stavo mettendo a registrare un po' di roba di Pink Floyd perché me l'ha chiesto un mio collega di lavoro. Ma no, Pink Floyd già ti ricarichi giù. Va bene, dai. Mi ha detto che se invecchia però mi piace, non c'è problema, ha detto si scarica, no? Non c'è problema. Ho detto la scarico e dopo come è pronto, ho detto mi ha dato un'idea, perché se non ce l'ho così almeno me lo faccio anch'io un CD di quelli. È positivo, già va bene, no, ma più fluidi già sono, vabbè. Ascolta Claudio. Ma Claudio si stava riporcellando e dovrebbe entrare fra poco. E mi sa che te anch'io mi vado a mangiare una cosettina, poi ci sentiamo. Va bene Mauro, a più dopo allora, grazie per l'informazione Mauro. Ascolta, ma di quella roba per il sabato nulla, quella roba non era entrato, non si sa nulla. Ma quale roba? Stupation. Come? Ah, dopo la cosa, da Luigi. Ma non mi ha detto niente, Mauro, non so niente, mi l'ho sentito anche stamattina. Non mi ha detto niente, no Mauro. E allora deve essere che quello là che lo fa non è rientrato. Perché detto che quando rientrava ce la organizzavamo. Ce lo dirà. Vabbè, quello è poco ma sicuro, non c'è problema. Quando sarà comodo te l'avremo, non vedo problemi. Positivo. Va bene, buona carica, Mori, a dopo, KK. E io che ci sentiamo dopo, dai, ciao. Ciao, amore. A cenare è il 21 Lucas. non c'è nessuno. Ma io sono qua sul campo, io sono qua e Mauro, sentitoci, il Mauro sta caricando e poi ha detto entrava, intanto ha fuggito la salita, entrato e ha fuggito giù. Perché? Ne passò, ne metto. Proprietario morta, no? Però c'è il marito vivo e vegeto. Cosa devono fare? No? intestazione del morto. Esatto. Ci vuole il certificato di morte e l'autocertificazione del marito, che è erede, proprietario. Sono telefono a te, passaggio di proprietà. Infatti deve venire lui, giusto, a circoscrizione. Certo, deve venire lui con il certificato di morte del vecchio proprietario, attestando che è morto, e l'autocertificazione di chi si è preso in carico la moto. Quindi o la fa lui l'autocertificazione, oppure deve fare il marito, se non ha la separazione dei beni. Se ha la separazione dei beni è un passaggio a te, non te ne può fare. Io decido se lo disavvio. Che cazzo, già pagato gliel'hai? No, assolutamente no. Allora, queste sono le formalità di prassi normale, capito? Quando un proprietario di un mezzo, di una qualsiasi cosa, un intestatario, anche di un atto di proprietà di una casa, è morto, ci vuole il certificato di morte con l'atto di successione. Automaticamente con l'atto di successione il notaio ti fa l'atto nuovo a chi è erede di successione. In questo caso è un motoveicolo, è la stessa cosa. L'erede di quella moto, quindi il proprietario di quella moto, è morto. Chi ha preso in carico la moto deve andare e fare l'atto di successione al PRA. Se non è mai stato fatto, è un bel casino. Ecco qua, ecco dove sta il tranello, perché se io pago il mezzo e non c'è stato fatto l'atto di successione, io me la trovo nel culo senza vaselina, così è come. La grande. Non stai scherzando. Tu non sei proprietario per niente, perché la moto al PRA, al pubblico registro automobilistico, così chiamato, è intestata al vecchio proprietario. Può essere morto, può essere scappato, può essere in galera. È sempre intestata al vecchio proprietario. Se nella sua famiglia nessuno ha preso in carico questa moto e la usano sempre intestata al vecchio proprietario, a te non te ne ha fatti nulla perché sono familiari. Ok? Automaticamente ad un atto di vendita deve subentrare il vecchio proprietario per firmare. Siccome il vecchio proprietario è morto, ci vuole un atto di successione agli eredi, quindi al figlio, al marito, alla figlia, a quello che è, alla cognata, ai familiari. Se questo non è stato fatto a te, passaggio di proprietà senza la documentazione del defunto non te ne può fare. Aspetta, allora, ha fatto l'atto di morte, là. Passaggio, allora, cosa è successo? Ha fatto l'atto di morte dalla moglie, questo qua, al marito. Altro che si deve fare il passaggio, cioè, per fare il marito della proprietà della moto, deve farsi il passaggio lui, poi altro che si deve pagare da lui al suocero, che lo fa il suocero nel passaggio, ma l'ha fatto l'atto di morte, poi c'è la prova della moto. Cosa vuol dire l'atto di morte? Non c'entra niente l'atto di morte, intanto l'atto di morte non esiste, ok, è un certificato di morte che ti rilascia l'agenzia funebre o il comune, se è stato fatto il funerale dal comune, perché uno non ha soldi a pagare il funerale, è automatico. Al momento in cui tu muori dall'ospedale, dalla camera mortuaria, esci col certificato di morte. Questo certificato di morte non ha niente a che fare con l'atto di successione del vecchio proprietario che è morto, è tutta un'altra cosa. Se la moto è intestata alla quella che è morta, Antonio, e vai tranquillo al 100%, passaggio di proprietà non gliene fa neanche lui, perché non è in possesso dell'atto di successione, non dell'atto di morte, come lo chiami tu. Comunque io ho rilasciato questo foglio che la persona, l'ex proprietario della moto, che purtroppo è morta, ok, gli hanno fatto un fuglio al marito, come la persona di questa moto è morta, ecco, non c'è più. E così vuole fare lui, se fa il passaggio, il padrone, cioè lui, il suocero, quindi Giuseppe, se fa il passaggio dalla moglie a lui, se lo fanno loro quello, oppure Antonio si fa il passaggio da lui a lui, cioè dal suocero di Giuseppe ad Antonio, lo può fare, fidati. Sia figli ne ha, perciò lo fa fare anche una figlia, non c'è problema. Ok, un attimo, ok, perché se causi un incidente o così via ci sono parecchie. Mi sento male, Sarra, hai toccato la radio, tu non ci vieni una bomba, boh, io lo sento male, Clara, avanti Clara. Al marito della defunta è un certificato di morte, un pezzo di carta che non ha, ripeto e ribadisco, niente a che fare col PRA. Al pubblico registro quella moto è intestata alla defunta. Se il marito è in possesso dell'atto di successione del PRA, quindi il PRA al marito le deve rilasciare un certificato dove attesta che la moto è passata in mano sue e si chiama non atto neanche di successione perché è un mezzo di trasporto, ma si chiama perdita di possesso. Quindi se lui non ha fatto la perdita di possesso al PRA, al pubblico registro automobilistico, atto di vendita di quella moto non ne può fare perché lui non è intestatario, quindi deve prendere prima in carico lui la moto, dove va registrata a nome suo al PRA, dopodiché quando è registrata devono passare 60 giorni per il pubblico registro e dopodiché lui può fare la vendita di quella moto ad un'altra persona, in questo caso ad Antonio, prima non può fare niente. Se è fattibile la cosa la prendi, ma comunque c'è la lascia perché ha visto che c'è una persona tranquilla, non c'è problema per quello, poi già ne posso parlare anche io, al limite ci metto, oddio non ci metto niente, comunque per me c'è una persona tranquilla, tutto qua, vedi un po', vedi e valuti, se ti va bene, se la lascia te ne cerchi un'altra, non si può già dirti. Positivo, comunque hanno fatto questo muro, hanno richiesto questo muro come la moglie deceduta, ecco. Comunque vedi un po' tu, vedi che stai lì a perdere tempo con lui, vedi un po', ti organizzi meglio, cioè nel senso vedi un, come si mettono le cose, se no ti lascio e si arrangio, o gli fa fare il tutto in modo tale che loro riescono a fare il passaggio, dalla defunta a un figlio, una figlia, quello che è, e poi uno dei figli vive su, cioè ti fa un passaggio a te, allora se fanno questa cosa qua va bene, se no non so, vedi un po' tu, e chiamalo e diglielo. Ma è normale Luca, se al prano risulta che è intestatario dal defunto al marito, alla figlia o al figlio che sia, se nel prano c'è scritto niente, e risulta la moglie, ovvio che non si può far niente, non te lo fanno neanche loro, capito il passaggio, è tutto lì, e in effetti Claudio ha anche ragione. Ha ragione al 100%, ma il metodo deve essere intestato o al marito o a uno dei figli, capito? Se no non si può fare nulla, nulla di nulla. E te ne dico un'altra, che deve essere il marito o il figlio o la figlia materna, altri parenti in altre successioni non possono entrare, né nipoti né nessuno. Quindi deve prendere in carico quella moto dal PRA, però, dal PRA, non come certificato di morte. Certificato di morte devi portarlo al PRA, perché devi attestare che la titolare di quel mezzo è morta. Quindi io sono il marito, prendo in carico questa moto. Allora il PRA che cosa fa? Col certificato di morte cambia l'intestazione della moto, capito? Pagando, però, 270 euro si paga, attento, perché si paga 270 euro o 260 e qualcosa al PRA per fare queste cose. Per l'atto normale, per un passaggio di proprietà, si paga 98 euro. Per fare l'integrazione da un passaggio all'altro si paga 270 euro. Devi pagarli quello che praticamente il marito, perché è vivo, oppure il figlio o la figlia se ne ha, solo gli eredi materni e basta, nipoti e parenti non si può fare assolutamente niente. Una volta che lui è intestatario della moto, ci passano 30 giorni per la registrazione per il PRA e poi altri 30 giorni devono passare per il pubblico registro. Quando lui è intestatario di questa cosa, della moto, allora ti può fare a te il passaggio. Diversamente non può fare assolutamente niente. Non c'è bisogno che ti informi, perché qua nel mio palazzo ci abita il vice direttore dell'ACI e siamo molto amici, quindi non c'è nessun problema. Sono molto ma molto informato di queste cose. Anche di moto e di macchina, di Giambadu e di Giambu a Bisefa, quindi lo so. Mi è capitato una volta di aver preso da un privato una macchina dove la proprietaria vera era morta e quindi lui mi ha detto devi fare così perché altrimenti non prendere niente, perché se succede qualcosa sono cacchi tuoi, tu non sei intestatario di niente, quello se succede un incidente mortale può anche dichiarare che tu la macchina me l'hai rubata. infatti. No, prima di fare queste cose voglio verificare se lui ha fatto questa iscrizione al PRA, se non l'ha fatta, se rimane com'è la cosa. Quando farà questa intestazione, che lui viene e mi dice guarda la moto adesso è intestata a me, mi fa vedere il foglio del PRA, con chi, se no rimangono le cose come stanno. Lui per dare la moto a te te la può dare solo in comodato d'uso, facendo lui un'autocertificazione, ok, in comodato d'uso, visto che la moto è assicurata, te la può dare in comodato d'uso, ma sempre con un'autocertificazione. Se tu la moto la devi comprare, deve essere in regola la documentazione, altrimenti tu non puoi comprare assolutamente niente, perché atto di vendita lui non te ne può fare, se no togliti il problema. Andate domani mattina o martedì, quando voi fate finta non sapere niente, andate tu e lui col GDP e il libretto alla circoscrizione, ci devo fare il passaggio di questa moto, quello legge e dice chi è Corso Giuseppina Ictis, no? E Corso Giuseppina è morto, perfetto, allora venite con un erede col certificato dove attesta che la moto è intestata a Tizio e facciamo il passaggio. Ti dice queste testuali parole, guarda, non te ne fa passaggio. Sì, ma ci credo, ma lì, no, infatti è così, è proprio così come stai dicendo tu. Guarda, domani mattina ti stacchi, se ti vuoi proprio capire al 100% e non mi sbaglio, perché quello che ti ho detto io è legge. Andiamo in via Pasqua della signora Giovanna, delegazione ACI, ti faccio parlare con lei e ti dice queste testuali parole, la stessa cosa. Ci vuole il domani sto lavorando, ma comunque domani pomeriggio, se ce la faccio scappo, lo trovo in persona e gli dico, ma è stato fatto questo dalla vecchia proprietaria, cioè la defunta, al marito, è stato fatto, è stato registrato? No, e allora non se ne fa niente. Non si può fare, no, non se ne fa niente perché lo dici tu, non si può fare perché è legge, senza un atto scritto, firmato dal notaio. Deve andare al notaio e fare l'atto di successione con il libretto e il CDP della moto, il certificato di proprietà, prima. Ok, quell'atto di successione va registrato al BRA, al pubblico registro. Passano 30 giorni per la pubblicazione, dopodiché la motorizzazione civile, non il BRA, rilascia il nulla osta al pubblico registro. Lì lui è intestatario della moto. Automaticamente ti può fare il passaggio, diversamente non ti può fare niente per te, perché non è intestatario di nulla. Infatti, cioè se mi informo domani, vediamo se l'ha fatto questo, se no non se ne fa proprio niente, e certo non si può, capito? Vedersi sì, ma non mi fido, se non posso fare il passaggio. La prima cosa che mi ha detto lui, che non si fidava di darmi la moto senza fare il passaggio, e se poi, visto che ho esagerato, se non ho fatto quello che devono fare, inutile io, allora sono io il primo a non fidarmi di lui, scusa. E per Luca un'altra cosa, occhio anche per te, occhio che proprio oggi mio padrino vice comandante dei vigili urbani, occhio che stanno fermando a raffica per le moto, soprattutto per i caschi non omologati, quindi Luca stai attento per quella targa, occhio al casco e all'assicurazione, perché sennò passiamo casini. Sono andato in barica, mamma mia, cara, non so perché o fai radio o fai computer, ragazzi. Prendi Gianni. No, no, stavo ascoltando, ero concentrato in questa roba, ma non così, perché se capisci quella moto, Antonio, hanno un pezzo per uno, perché sono lì, non so se questa signora ci aveva figli, però se la figli hanno anche un pezzo di figli, entrano nella prescrizione come contratto io in questa roba della casa, dei civili, hai capito, per legge, finché non c'è questa prescrizione non si può fare nulla, quindi quando c'è un contratto, se si prende la moto deve firmare sia il marito che il figlio. Cappadoglio, no? Sì, sì, mai fate così. Cappa. È così, fatevelo dire a me che è così, che anche con il mio suocero che aveva lasciato la macchina era la stessa cosa quando è morto. Io la volevo tenere, anzi mio cognato la voleva tenere, alla fine l'abbiamo demolita perché ci volevano più soldi per fare l'atto di successione, perché questa macchina era un pezzo di mia moglie, un pezzo di mio cognato e un pezzo di mia suocera. Alla fine abbiamo detto quanto vale questa macchina, 2000 euro, ma lampade da rugomolo, e l'abbiamo demolita perché ci voleva un sacco di soldi perché uno diventasse proprietario. Alla fine ci abbiamo rinunciato. Fatti. Comunque il marito lo può fare, no? Testarsela a lui o no? Certo, con l'atto di successione e la firma dei figli sì, e con la moto di tutti. No, è come una casa, la stessa cosa, è la stessa identica cosa, la prassi è uguale per tutti i beni di uno che poi muore, è la stessa cosa, non cambia assolutamente niente, ci vuole un'autocertificazione che è il certificato di morte, dopodiché ci vuole l'atto di successione perché uno diventi proprietario, quando uno è proprietario poi può fare quello che vuole. Radio. Sì. Ok, come sta uscendo? Bene, perché? Cosa fa? C'è stato qualcuno che ci sta uscendo male, tu? Io ti ascolto bene. E il battato glielo il filtro alla 140, gli ho detto 1000 volte di non lasciare il filtro in AM. Venne inserito. e ancora Luca non l'ha compreso. Io ti ascolto benissimo, non c'è problema. Ok. Gianni? Io ti ascolto bene, Gianni, ti ascolto benissimo, ti ascolto, è un modulatore libero, è segnale. Non è, diciamo, come il giorno, però diciamo che va bene, la modulazione va bene, riesco ad ascoltarti e poi non lo so gli altri che hanno dei problemi, io ti ascolto benissimo. A me è tutto ok, esatto, fredda la radio, benissimo. Ok, ok, Luca, una volta mi fa preoccupare, vabbè, non ti invito più con te. E Luca va a un gabbolo computer, la volta su Sky, la radio che funziona quando li viaggi. Vabbè, comunque il discorso è quello e basta. Quindi tu informati prima bene e poi ci vedrà quanto, capito? Sì, no, non bisogna fare cose così alla riquadrata, no. Le cose vanno fatte sì, dove una persona sia, con tutta la buona volontà, mi ha detto io la moto te la do quando faremo il passaggio. Allora, quando faremo il passaggio, se la moto risulta intestata a tuo suocero e scritta nella PRA, va benissimo, si può fare il passaggio. Se la moto ancora risulta la defunta, mi dispiace, ma se la può anche tenere, no? Non ne ho problemi. Le carte ci vogliono anche, le carte in regola per fare le cose. Senza le carte in regola non si può fare assolutamente niente, capito? Quindi quelle sono cose che bisogna fare e basta. È giusto, io ho chiesto informazioni da te, Claudio, perché tu hai avuto macchine, insomma, tu sta brava, questi passaggi li hai fatti prima di me e ne sei molto più di me. Capito? Tutto qua. Io ringrazio di avermelo detto tutte queste cose qua, perché io stavo andando proprio nel buio, con queste cose non si va nel buio, bisogna stare molto attenti, perché sono cose molto delicate, perché chi comanda le cose non sono i passaggi così fatti come procura di vendita, praticamente, che praticamente vuol dire che tu prendi il CDP, vai con lui, fai la trascrizione alla circoscrizione e poi non lo registri al pubblico registro. La moto rimarrà sempre intestata al vecchio proprietario, perché quel CDP deve essere registrato al pubblico registro per risultare la moto intestata a te. Se non va registrato al pubblico registro, la moto è sempre intestata al vecchio proprietario. In questo caso quella moto, siccome non hanno mai fatto niente, l'hanno sempre usata in famiglia, giustamente, quella moto è sempre intestata alla vecchia proprietaria. Quindi uno la deve prendere in carico, prima la prende in carico chi la deve prendere di famiglia e poi può fare il passaggio di proprietà per la vendita, se no quella moto non si può vendere. Ma allora tu dimmi una curiosità, ma chi sta portando la moto, in poche parole, non potrebbe neanche portare la moto perché è del genere, in poche parole, del proprietario? Non è che è intestata l'assicurazione, se è intestata lui o se è intestata alla vecchia proprietaria o chi gliel'ha fatta l'assicurazione, perché c'è anche la legge che se la moto non è intestata a Claudio assicurazione intestata non gliene possono fare, quindi bisogna vedere anche che casino c'è con l'assicurazione, capito? Quello è un altro punto interrogativo, perché lui mi ha detto che l'assicurazione intestata a lui, io so come abbiano fatto, gli avevano fatto l'assicurazione se la moto è intestata a una defunta. Boh, io non capisco questo. Casino c'è in quella moto, Antonio, lascia aperta. Ti sto dicendo che c'è casino. Basta un amico e ci abbia un'agenzia assicurativa e ti fa l'assicurazione. Quando poi nascono i problemi a livello di incidenti stradali dove qualcuno si fa veramente male, allora escono fuori i casini, capito? Escono fuori i casini. E sono se male la faccio pure i calcini, io ma fatto tutto tu io, ma mai si vede che non lascio tutta la carta, ma se mi va le cose in regola io ben venga. Se le cose non sono in regola lascerebbe tutto. Perché mi sembra strano che questo che stia viaggiando con l'assicurazione e che aveva fatto l'assicurazione, anche. Scusa, se la moto è testata a quella defunta. Ma io veramente non riesco a percepirlo. Non fa per titolo di amicizia, capito? Ripeto che basta che ci sia un amico che abbia un'agenzia di assicurazione o qualche parente o qualcuno che ti conosce, cioè, e non fa niente, dai, hai mamma assicurazione, e la mia suocera fa una lo stesso qui e là, e ti ravvasi. Quando poi subentrano i casini, no, ti ripeto, di incidenti stradali gravi, allora qualcuno va a finire in galera e poi si lamentano. Perché io a mia figlia, quando ha comprato la macchina, io ho seguito la legge Bersani, va bene, che è una legge che tutela i nuovi assicurati, e ho fatto sì che l'assicurazione di mia figlia rientrasse nella mia classe di merito seguendo la legge Bersani. Quindi sono intestatario anche io di quell'assicurazione, perché ho superato i 20 anni di patente e quindi mi hanno fatto la legge Bersani, sono anche io intestatario di quell'assicurazione. Però mia figlia porta il mio stesso cognome. Se portasse un altro cognome, un parente, non potrebbe rientrare nella legge Bersani. Quindi l'assicurazione ce l'avrebbe fatta a nome suo partendo dalla 14ª classe, invece mia figlia è partita dalla mia classe di merito, che è la prima, però seguendo una legge, che è una legge di Stato, non prende ricorso alla Garogna. Non è così, Gianni Capridue? Thank you. dice, e poi vedremo, dai. Fatti informati, sei, io ora sto bene, sei, mi sto tutto bene, no? Che a quelli però si sono detto, perché c'è un'interpretazione, è quello, e bisogna stare attenti a quello che dicono, però, come stavo dicendo, Claudio, sono anche incomodato molto, incomodato molto, Claudio, voglio essere d'accordo, sia il marito che quando si blocca la sospensione, fate il passaggio, si può fare così, però la moto risulta sempre interessata agli eredi, al marito. Sandro lo riprende. Sandro lo riprende, grazie. Sono qua, no, va bene. Ok, non mi stavo lanciando a Sandro, però non l'ho ripreso. Ok, Luca è al computer. No, così è, nella fotonoma, ricomodato tutto, la roba, e poi quando faranno la sospensione possono fare il passaggio, così io penso che si possa fare. Sì, sì. Qualcuno deve prendere in carico la moto, perché incomodato d'uso uno la può dare sotto autocertificazione, dove va sempre registrata, o al pubblico registro, oppure direttamente al TAR, perché sono documenti che attestano e tu puoi circolare con quella moto. Non stai scherzando, no, non esiste. Ma proprio oggi stavo ascoltando una frequenza dove hanno fermato uno e praticamente la macchina era intestata non so a chi e l'assicurazione è intestata a lui, e gli hanno sequestrato, ci manda a terra attrezzi che vogliono portare via la macchina, però sequestrano la macchina, però sequestrano, non si può avere l'assicurazione intestata a te e sul libretto non è stato registrato, anche se c'è il talloncino che è a nome tuo. Se tu non hai fatto la registrazione, perché molta gente sai cosa fa per risparmiare i soldi del passaggio proprietario, fa il passaggio alla circoscrizione, no? Come ti ho detto io, quindi registrando nel CDP che la macchina era tua, la parte a un funzionario del comune, non c'è problema, sino a qua ci siamo. Quella registrazione, perché non è un atto, l'atto avviene al PRA, okay, che è un pubblico registro, il comune non è un pubblico registro, quindi quella scrittura, quella registrazione così fatta dal funzionario del comune davanti al proprietario del mezzo e a chi sta acquistando dura 60 giorni. Ok, se entro 60 giorni tu non registri il CDP, ok, il certificato di proprietà, lo porti al PRA e lo fai registrare, automaticamente ti danno il talloncino da applicare sul libretto. Quella registrazione che tu hai fatto è nulla, non serve a niente. Ok, non serve assolutamente a niente. Positivo, positivo, ebbene, infatti non puoi neanche portarlo in mezzo, perché a parte che dura 60 giorni, ma in quei 60 giorni di te hai il tempo di andare a fare questo benedetto passaggio anche di proprietà. Certo che sì, è il tempo materiale per poter registrare sia il certificato di proprietà nell'ufficio del competente e sia per poter fare la registrazione dal CDP, ok? Ex foglio complementare, quindi dal CDP al libretto che va praticamente registrato sia al PRA e sia alla motorizzazione civile. Perché? Perché deve risultare che quella targa passa da Claudio ad Antonio e quindi va in automatico tra il PRA, che è il pubblico registro automobilistico, quindi dove registrano tutti i libretti, dove si prendono 60 giorni per trasferire i dati dal PRA alla motorizzazione, in modo che quando chiamano ti fermano, se tu vedi cosa fanno i carabinieri quando ti fermano, le dai il libretto, chiamano in centrale e ci mi dice a chi è intestata questo numero di targa, e loro le dicono guardano il CED, il centro di elaborazione dati della motorizzazione civile, passato la registrazione del TRA alla motorizzazione civile, quindi la targa di quella macchina risulta sempre intestata a Claudio. Bene sapere queste cose, perché sono cose delicate. Cose normalissime, ragazzi, non è che possiamo giocare col fuoco, sono cose normalissime di pubblica amministrazione. Siccome di truffe ne sono state fatte tante, soprattutto con le assicurazioni, allora la legge non mette più ignoranza, chi sbaglia paga, ed è giusto così. In questo caso tuo ci sono due proprietari di quella moto, uno che è il primo proprietario, quindi chi ha acquistato quella moto se l'ha intestata, ok, oppure quando l'hanno acquistata, che cosa è successo? È stata presa con una finanziaria, la finanziaria di allora voleva l'intestazione per avere i soldi, no? Non è che Claudio prende la finanziaria e la moto va intestata Antonio, no, prima si faceva così, chi chiedeva i soldi doveva essere intestata io la moto, quindi sicuramente chi ha comprato quella moto, va bene, era tizio, però voleva intestarla e non si è potuto fare, quindi è rimasta l'intestazione tricchia di chi ha comprato quella moto, perché sicuramente è così, non credo che chi si avrebbe già comprato la moto, ma vabbè che c'è Enrico a quella moto, quindi può darci pure. Comunque è rimasta sempre Enrico intestatario, nessuno se ne è mai occupato, oggi che la devono vendere ci sono mille problemi, sono sicuro al 100% che la stanno vendendo proprio per togliersi questo cazzo di problema. Ho la puzza la prima. Pensi sì, ma fino a un certo punto, Claudio. Devo stare attento per queste cose, molto occhi aperti. Comunque io ti ho prospettato qual è la situazione e vai tranquillo che non mi sbaglio. Ora vedi tu, parlaci come ti ha detto Luca e dile: senti, io per comprare questa moto voglio l'intestatario, voglio vedere il libretto, lo vedi il libretto? Cazzo, l'hai visto il libretto, sì o no? L'ho visto, è testato la socia a Bonarco. E allora vedi bene come ti dico io. Al tracco la moto è testata la vecchia proprietaria, loro non ne hanno mai fatto atto, non ne può fare nessuno. Se non con i documenti che ti ho detto io. Diversamente quella moto se la tengono, vai tranquillo. Luca, non c'è più, Luca. Entra esci. A voi non c'è nessuno in radio, Fruscia, chiamami e abbassa il volume. Avanti Sandro, ci sei. Anche Sandro è alle prese con i baracchini. Ma ti rampi tutto il gomo che fa la radio 2, riprendi Gianni. Ok, io già li ho portati un po', però capito come si dà una parte, giusto? Per fare la garagica, faccio sempre quello che mi ha preso. Non è una panina e altro qui, perché poi andate a Doha a prendere il carico d'olbre, c'è la roba andata bene fino adesso, si risolve solo come abbiamo detto, proprio nella gestione, però devo firmare il papiere. Quando la prendo devo firmare il marito e il figlio, è una roba che in regola, hai capito, perché c'è questa roba della concessione, no, altrimenti è una cosa così, come se io ne vado da Claudio, qua, prestami la moto che vado a farmi un giro, la stessa cosa. Positivo, no, su queste cose bisogna aprire gli occhi, Gianni, no, e io, siccome fido molto di Claudio, è giusto così, è così, poi c'è poco da lontano, se non è intestata, se non si hanno fatto intestazione loro, e cosa vogliono vendere loro? Non può venire nuda, non possono vendere neanche lo spirito, lo so di venderlo. Un giro, però è sempre solo loro. Genero, addirittura con la moto, ma non lo può neanche portare. Vado su io. Il marito lo può portare, i figli. Genero, quella moto lì, non la può portare in sella, ecco. E infatti, perché il Genero non c'entra nulla, non è erede il Genero. Il Genero non è erede, è la moglie che è erede. Hai capito? E sono, come si chiama, che sta facendo Claudio, proprio i figli materni. E niente, quello lì è una cosa, essere il marito della figlia, e non c'entra un capo a merenda. E infatti, padre, riprendi capo. Infatti, stiamo dicendo sempre la stessa cosa. La cosa grave è che bisogna vedere come mai lui risulta intestatario dell'assicurazione. E questa è la, è anche l'inghippo, capito? Sicuramente c'è qualcuno che gli ha fatto l'assicurazione così in contropiede. Però questi sono problemi suoi, non di certo sono problemi tuoi. Una cosa è certa, che ci vogliono i documenti che ti ho detto io, se non sei sicuro di quello che ti ho detto, io ti accompagno, ti ho detto, alla delegazione ACI di via Pascoli a Sierra Giovanna, che abitava nel mio palazzo di via Pascoli, abita, e te lo faccio vedere da lì, non c'è nessun problema, guarda, sono sicuro al 100% che è così. Al 100%, non te lo dico perché voglio dirti fesserie, ma è al 100% così, perché quando è morto mio suocero, che è rimasta la sua macchina, io la usavo, la usavamo, io e mio cognato la usavamo perché era assicurata, eccetera, eccetera. Mi hanno fermato, mi hanno chiesto di chi era la macchina, di mio suocero. Certo, hanno detto che era morto. E niente, una volta che dai la tua patente, ma così non sei tu il proprietario. Al momento in cui mio suocero è morto, perché la macchina era una macchina bella, era un 405 da Peugeot berlina, nuova nuova, era sempre in garage, al momento in cui è morto abbiamo continuato ad usarla così. Quando è scaduta l'assicurazione, non ce ne hanno fatto, perché doveva andare lui a firmare per ritirare l'assicurazione, quindi siamo stati costretti a dichiarare che era morto, quindi automaticamente non ce ne hanno fatto. Abbiamo fatto il fermo macchina e quindi bloccata l'assicurazione e tutto. Poi abbiamo detto: cosa facciamo di questa macchina? Chi la prende in carico questa macchina? Ci siamo informati dal legale di famiglia, eccetera. Signori belli, quella macchina è un pezzo di mia moglie, un pezzo di mio cognato, e quindi è erede ancora la moglie, quindi mia suocera. Abbiamo detto: cosa ci vuole per fare tutta questa cosa? Ci ha fatto i conti, non ne valeva il valore della macchina, l'abbiamo rottamata, l'abbiamo buttata via. In effetti, il buon giro dei conti non ne vale la pena, no? In effetti è così. Cappa, l'illuminazione ogni tanto ci vuole. Queste sono cose, ti ripeto, ribadisco, certe. Tu informati, se non sei sicuro, informati, io ti do la mia disponibilità per non perdere tempo, per farti capire meglio, ti accompagno alla delegazione ACI di via Pascoli, dove c'è un delegato della motorizzazione civile, e ti dice le stesse identiche cose, tu non cambi assolutamente niente. Vediamo se è rientrato Sandro. Niente. Luca. Vabbè, volevo dire a Luca sta cosa del casco e soprattutto dell'assicurazione. Di stare molto, molto attento. Molto, molto attento, se no facciamo guai a lui, non chissà molto. Avanti Gianni, riprendi. Al discorso continuo, cioè, stiamo sempre girando e arriviamo, e come fino a fondo sempre allo stesso punto, no? Non c'è da fare, perché nessuno mette firme. così poi Giovanna si era fatto un suo lavoro contigo, gioco la carta, perché mi ha fatto le pratiche quando ho comprato la Volvo. Lo so, sì, sono Giovanna, carta abitava nel palazzo dove lì di via Pascoli, proprio dove c'è la delegazione lì, capito? Ed è una persona molto molto preparata, quindi se ti vuoi togliere il problema, io ti accompagno un po' con signor Giovanna e poi vedrai che ti dice di lasciar perdere. Ok, un attimino che vado in cucina. Sì. Sono cose che non vanno bene. Perché io adesso penso a farci bene. Ma casino anche per un'altra moto che ho io. Purtroppo il vecchio proprietario è morto e adesso ho sentito tutte queste belline cose. Bisogna mettere la moto in garage e chiudere la chiave. Io quindi manca molto e quale che devi comprare tu. Allora, lo scooterone 125, quella moto la devo prendere, però se c'è tutta questa maragna qua in mezzo e non si mette a posto nulla, non se ne fa niente. Io prima ne trovi quante ne vuoi, io ho con 50 non prendo niente, tipo le prime feste, capito? Però la moto quella è registrata e altra per forza bisogna... Sì, è proprio così. Cappa, vediamo se è entrato grave. E quando non è entrato, vediamo se Sandrino è entrato, Sandro niente. Bella nota stasera lì. Luca niente, riprendi già. Siamo rimasti io, tu e Claudio. Quando io scendo lui attaccato al computer e anche Claudio la stessa cosa. pagata. Vediamo un po' se ha ripreso Claudio. Claudio ha ripreso? Negativo. Claudio ha ripreso. Luca? Luca computer. Va bene. Sandro? Anonisma? Va bene. Che dire? Domani si lavora, io lavoro domani già. Perché sono sono convinto. Non è so abbassa, tira e molla. No, vabbè. Ognuno fa quello che piace, non mi interessa. Vabbè, non so più cosa dire, perché mi sembra che ci siamo detti tutto. Sono già le 11. Io fra un po' stacco e domani mattina un po' di cosette da fare, c'è anche questo aggiornamento che stiamo facendo, questa chiamiamolo corso di aggiornamento, chiamiamolo come volete, ma sono un po' impegnato al lavoro, anche perché poi domenica sono di primo turno e sono proprio all'impianto nuovo e poi vado in ferie. Un po' così, mi stavo leggendo alcune cosette, va bene, avanti e tu riprendi. Va bene, anch'io adesso da proprio da salutarvi, io domani trabacco. Salutoni già, da salutare anche a te Claudio, dai, ce la riascoltiamo tutta domani pomeriggio. E anch'io adesso domani devo lavorare, sono già le 11, non sapevo neanche che ora era, già stavo parlando. Va bene, passate la buonanotte e ce la riascoltiamo tutta domani. Ciao Gianni Capri 2, buonanotte, saluto a te, guarda familiare, idem per Claudio e ce la riascoltiamo tutta domani. Ciao, buonanotte. Ciao Antonio, allora, buonanotte, buon punto per domani, anche io diciamo stavo crollando e quindi non è che riesca molto a mantenere il sonno. Io stavo crollando poco fa, però mi sono trattenuto, voglio scambiare due chiacchiere fino all'ultimo, la voglio scambiare poi quello lì e quindi ne ho approfittato anche io. Saluto anche a te Claudio, buon punto per domani e domani sera speriamo che la ruota sia più veloce con il facciamo una serata in compagnia, riprendila. Sì, ok, d'accordo, la fine settimana è sempre un po' triste per tutti, a meno che non ci sia quello che proprio non fa niente la mattina e la sera e che quindi abbia voglia di chiacchierare, di fare, di trattenersi, ma noi, grandi lavoratori, alla fine, arrivata una certa ora crolliamo. Ok, un abbraccio a tutti e due, ciao a te Antonio, ci aggiorniamo domani anche con te Gianni, un saluto a casa per tutte e due, grazie della compagnia come sempre, ci riascoltiamo domani, un saluto cordiale, una buonanotte e un saluto anche a tutti quelli che stanno ascoltando, buonanotte a tutti e a domani. Ciao Claudio, buonanotte, ciao Antonio. Ciao Claudio, ciao Gianni, buonanotte di nuovo e ci aggiorniamo domani, ciao.